pratica è successo questo: il PD negli scorsi giorni, il Partito Democratico, aveva presentato un emendamento al decreto milleproroghe che avrebbe insomma portato alcune misure, a mio avviso, a nostro avviso, parlo a nome del Comitato Pensiero Urbano, comunque davvero innovative rispetto alla gestione del mercato di Airbnb e delle piattaforme online di tipo turistico, e quindi appunto regolamentando l'utilizzo delle piattaforme. È successo però che in precedenza alla riunione di Commissione Bilancio, in una riunione della maggioranza, Italia Viva, capeggiata dal deputato Luigi Marattin, ha di fatto fatto in modo che venisse affossato questo emendamento, sostenendo che una regolamentazione di Airbnb non è necessaria, che questo settore del turismo porta benefici a tutti, evidentemente non conoscendo bene la materia e ciò di cui si parla, e tant'è che poi in commissione il proponente ha ritirato l'emendamento in questione. Quindi insomma, rispetto agli impegni presi sul tema casa, sul tema delle piattaforme online, ancora una volta il governo non porta avanti una battaglia giusta e sacrosanta, e io aggiungo anche di buon senso, insomma, anche perché tutte le città europee hanno regolamentato in tal senso. Nello specifico, questi provvedimenti cosa dicevano? Leggevo che c'era una misura che riguardava il numero di appartamenti che si possono destinare al mercato turistico. Sì, erano diciamo tre novità molto interessanti. La prima riguardava, in ordine di importanza, a nostro avviso riguardava il limite di giorni su base annua per la quale è possibile mettere in affitto turistico un appartamento. Questa è una misura che è stata adottata in tutte le grandi città internazionali, poi ovviamente con delle differenze rispetto al, diciamo, al tempo, al numero di giorni in cui è possibile farlo, cioè chi ha 190 giorni, chi 60, chi 100, insomma, poi su quello si può variare, diciamo, di città in città. C'era un'altra misura rispetto all'onere della prova di attività imprenditoriale, che quindi il compito di provare la sussistenza di un'attività imprenditoriale spetta al locatore e non più agli uffici preposti. E invece appunto sì, un'altra novità rispetto appunto a queste licenze comunali, che i comuni avrebbero potuto insomma stabilire in termini di numero massimo per appunto regolare al meglio il numero di annunci in città. Ora quindi insomma questa norma è stata affossata, c'è la speranza che possa, come dire, essere ripresentata più avanti? Questo non lo sappiamo, perché fino alla notizia del ritiro non c'è stata praticamente nessuna uscita pubblica sul tema, è stato, io credo, volontariamente tenuta sotto traccia, proprio per appunto evitare che si svolgesse, come giusto che sia, una discussione pubblica sulla base di quello che avviene in Parlamento. Quindi appunto non sappiamo ben poco. Quello che abbiamo saputo l'abbiamo scoperto dai tweet di Marattin, paradossalmente, quindi è un po' strano il tutto. Addirittura ieri sera nella trasmissione Porta a Porta la ministra Paola De Micheli, insomma, interrogata sulla questione, non ha risposto, ha evitato di rispondere. Quindi, come dire, c'è un onore di mistero che un po', insomma, è un po' inquietante. E a livello comunale, insomma, dato che il PD, il Partito Democratico, l'amministrazione tutta si era presa l'incarico di sollevare il tema a livello nazionale, ora vogliamo delle risposte, vogliamo capire intanto a livello nazionale se ci saranno possibilità, e anche a Bologna, insomma, a che punto si è con le promesse fatte, che c'erano state fatte durante l'istruttoria.